La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ancora una volta ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. 70 anni fa Orson Welles scatenava il panico in America trasmettendo lo sceneggiato radiofonico La guerra dei mondi, durante il quale il giovane Welles annunciava lo sbarco dei marziani sulla Terra. Dino Pesole commenta insieme alla professoressa Francesca Anania, docente di storia del giornalismo all'Università Latuscia di Viterbo, questa storica trasmissione. Nella seconda parte vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sui fratelli Tuvia, Asael e Zeus Bielski, tre ebrei che dal 1941 al 44, in un villaggio costruito in una foresta della Bielorussia, sfidarono i nazisti con le armi e salvarono oltre 1200 ebrei. Ma ora la parola a Dino Pesole. Sono le 8 in punto della sera del 30 ottobre del 1938. Le stazioni radio della CBS, una delle maggiori emittenti statunitensi, iniziano la trasmissione di uno sceneggiato radiofonico di Howard Koch, tratto dal famoso romanzo fantascientifico La guerra dei mondi di Herbert George Wells. Nessuno probabilmente immagina che quella diverrà la più celebre trasmissione radio della storia. L'adattamento radiofonico prevede l'inserimento di comunicati live identici a quelli trasmessi dal giornale radio. Nel testo che il giovane 22enne Orson Welles legge dagli studi della CBS si annuncia lo sbarco dei marziani, annuncio che provocherà per una notte intera il panico negli Stati Uniti. È una finzione, ma molti ascoltatori credono veramente che la Terra stia per subire lo sbarco di una flotta di bellicose astronavi marziane. Per commentare insieme questa storica trasmissione, di cui ricorrono proprio in questi giorni i 70 anni, abbiamo in studio con noi la professoressa Francesca Anania, docente di storia del giornalismo all'Università Latuscia di Viterbo. Buonasera, professoressa. Buonasera. Bene, ascoltiamo insieme intanto alcuni dei brani del programma che andò in onda la sera del 30 ottobre del 1938. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione del nostro programma di musica da ballo, ma ci è appena pervenuto uno speciale bollettino della Intercontinental Radio News. Alle 7:40 ora centrale, il professor Farrell dell'osservatorio di Mount Jennings, Chicago, Illinois, ha rilevato diverse esplosioni di gas incandescente che si sono succedute ad intervalli regolari sul pianeta Marte. Le indagini spettroscopiche hanno stabilito che il gas in questione è idrogeno e si sta muovendo verso la Terra ad enorme velocità. Dall'osservatorio di Princeton, il professor Pearson ha confermato le osservazioni di Farrell e ha descritto il fenomeno come qualcosa di simile a fiammate azzurre sparate da un cannone. Torniamo ora alla musica di Ramon Raccheio, che suona per voi nella Meridian Room dell'Hotel Park Plaza di New York. Professoressa Anania, già da queste prime informazioni si capisce chiaramente che gli autori del programma e lo stesso Orson Welles avevano l'intenzione di creare, come dire, una sorta di pathos sull'evento che stavano per raccontare, ma non avevano previsto le reazioni del pubblico. Cosa ne pensa? In effetti non avevano previsto la potenza e la capacità di condizionamento della radio. Il grande miracolo della radio, che vuol dire l'onnipresenza di tutto ciò che gli uomini fanno o dicono in qualunque parte del mondo, l'eliminazione delle frontiere, il superamento dell'isolamento spaziale. Basti ricordare che nel 1924 la radio trasmette le due convention nazionali negli Stati Uniti e vengono collegate 24 stazioni in diretta per arrivare a milioni di persone. Nel 1928, durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali, la radio è il principale strumento di propaganda e Herbert Hoover viene ascoltato da 40 milioni di persone. Quindi nel 1938, quando va in onda la trasmissione, la potenza del mezzo è ormai in piena espansione. Quindi grande potenza del mezzo, di cui gli stessi autori non si resero perfettamente conto. Bene, ora ascoltiamo questa seconda parte del programma. Ladies and gentlemen, following on the news given in our bulletin a moment ago. Signore e signori, a seguito delle notizie riferite nel bollettino trasmesso pochi minuti fa, l'ufficio meteorologico governativo ha pregato i maggiori osservatori della nazione di seguire attentamente qualsiasi altro disturbo che si verifichi sul pianeta Marte. L'insolita natura di questi fenomeni ci ha indotti a richiedere il parere di un noto astronomo, il professor Pearson, dal quale ci attendiamo delle delucidazioni. Fra qualche minuto saremo collegati con l'osservatorio astronomico di Princeton, New Jersey. Poi, con un crescendo di informazioni raccolte sul campo, si annuncia lo sbarco dei marziani. Signore e signori, devo riferirvi qualcosa di molto grave. Sembra incredibile, ma le osservazioni scientifiche e l'evidenza stessa dei fatti inducono a credere che gli strani esseri atterrati stanotte nella fattoria del New Jersey non siano che l'avanguardia di un'armata di invasione proveniente da Marte. La battaglia che ha avuto luogo stanotte a Grover's Mill si è conclusa con una delle più strabilianti disfatte subite da un esercito nei tempi moderni. 7.000 uomini armati di fucili e mitragliatrici sono stati sconfitti da una sola macchina degli invasori marziani. I superstiti sono solo 120. Gli altri giacciono sul campo di battaglia che si estende da Grover's Mill a Plainsboro, travolti e schiacciati dai piedi di metallo delle macchine nemiche o ridotti in cenere dal raggio di fuoco. I mostri controllano ora la parte centrale del New Jersey e hanno così tagliato in due lo Stato. Le linee di comunicazione tra la Pennsylvania e l'oceano sono interrotte. Le ferrovie sono sconvolte e i servizi da New York a Philadelphia sospesi, salvo qualche treno che viene dirottato per Allentown o Phoenixville. Le autostrade dirette verso il nord, il sud e l'ovest sono affollate di gente terrorizzata. La polizia e le riserve dell'esercito sono incapaci di controllare la folla che fugge impazzita. Si ritiene che domattina i fuggiaschi avranno raddoppiato la popolazione di Philadelphia, Camden e Trenton. La legge marziale è stata proclamata in tutto il New Jersey e nella Pennsylvania orientale. Professoressa Nania, da allora la trasmissione di Orson Welles è citata in tutti i manuali di storia delle comunicazioni di massa. Perché è considerata così importante e perché l'America reagì in quel modo? Allora, la capacità dei mass media di influenzare, se non condizionare, grandi masse di pubblico è spiegata da questa prima trasmissione. Soprattutto ci induce a pensare quanto possa essere condizionante l'uso dei mezzi di comunicazione di massa, che già negli anni 30 si rivolgevano al pubblico con due obiettivi: informare, ma anche intrattenere. Questo mescolare i generi, cosa che oggi avviene sistematicamente e che confonde realtà e finzione, può provocare e ha provocato nel pubblico un'incapacità a distinguere il vero dal falso. E questa è la ragione fondamentale delle citazioni ricorrenti nei manuali di storia della comunicazione. Ritroviamo infatti nella trasmissione del 38 le premesse per l'analisi sull'oggi. Perché l'America reagì in quel modo? Siamo nell'ottobre del 1938. Gli Stati Uniti sentono avvicinarsi la guerra, che come sappiamo scoppierà un anno dopo. Quindi si sentono sotto attacco. Certo, l'opinione pubblica è scossa e tendenzialmente, come sappiamo, isolazionista. Ma ricordiamo che gli Stati Uniti entrano in guerra solo nel 1941, ma la possibilità di essere invasi non è poi così assurda, almeno nell'opinione popolare, e la paura e l'incertezza del futuro, oltre alla capacità del medium di risultare verosimile, portano a queste conseguenze. Un'ultima questione, professoressa. Il predominio assoluto dei mezzi di comunicazione nella società è da decenni una realtà con cui ci confrontiamo ogni giorno. Prima la radio, poi la TV e infine i giornali e ora internet. Come è cambiato, in poche parole, se possibile, il modo di comunicare in questi anni? I media in generale hanno assunto un posto di primo piano, come sappiamo, nella società fin dagli inizi dell'Ottocento, con i grandi quotidiani, con l'avvento del cinema alla fine dell'Ottocento. Si assiste all'espansione, alla possibilità di comunicare e di informare una massa sempre più estesa di persone che attraverso questa maggiore informazione sono in grado di divenire protagoniste della società. È indubbiamente molto cambiato il modo di trasmettere le notizie. Siamo di fronte oggi a un'informazione in pillole. Negli anni 60 del Novecento il quotidiano, il libro, la radio e la televisione informavano con l'obiettivo fondamentale di creare un pubblico alfabetizzato. Ora la possibilità sempre più diffusa di immagazzinare ed elaborare dati, informazione, e unifica le industrie culturali in un universo chiamato mondo della comunicazione, e in questo caso la rete, l'internet, diviene protagonista. Grazie, grazie molto professoressa. La storia e la memoria. Bentornati alla storia e la memoria. Il 22 giugno 1941, la Germania lancia un attacco a sorpresa contro l'Unione Sovietica, causando lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Nelle città bielorusse, migliaia di ebrei vengono rastrellati e costretti a vivere nei ghetti. In un villaggio nei dintorni di Stankevich, tre fratelli ebrei, Tuvia, Asael e Zus Bielski, cercano scampo nei boschi. Nel fitto della foresta danno vita a un campo dove accolgono molti compagni ebrei in cerca di rifugio. Raggiungere la comunità dei Bielski è il sogno di tutti gli ebrei della regione. Per 1200 di loro il sogno si avvererà. Oggi, 900 chilometri a nord-ovest di Mosca, nel villaggio bielorusso di Stankevich, si trovano i resti di quella che era una florida fattoria. Nel 1941, la famiglia che coltivava queste terre diede vita ad una straordinaria storia di resistenza partigiana all'Olocausto. La storia della famiglia Bielski. Aaron è il più giovane di 11 fratelli. A Stankevich vivevano circa 12 o 13 famiglie. Noi eravamo gli unici ebrei. Vivevamo in una zona gentile, una zona di non ebrei. Non era facile. Non era semplice per una famiglia ebrea vivere in mezzo ai gentili. L'antisemitismo è diffuso in tutta la Bielorussia. Fin dalla giovane età, i suoi fratelli maggiori, in particolare Zus, Asael e Tuvia, imparano a difendersi facendosi la reputazione di gente da temere. La guerra iniziò il 22 giugno 1941. Quella è la data in cui, per la mia famiglia, iniziò l'Olocausto. La Luftwaffe bombarda gli obiettivi strategici dell'Unione Sovietica, di cui la Bielorussia occidentale fa parte. In pochi giorni la regione dove vivono i Bielski viene occupata dalle truppe tedesche. Temendo per la loro sorte, Zus e Asael Bielski decidono di fuggire e rifugiarsi nella fitta foresta che circonda la loro fattoria. Conoscevano la foresta come voi conoscete le dita della vostra mano. Si rifugiarono nei boschi perché mio padre aveva detto loro: la guerra non durerà per sempre, presto finirà, i tedeschi perderanno. Per diverse settimane la famiglia Bielski continua ad aiutare Zus e Asael a nascondersi nella foresta. Ma nell'agosto del 1941 la polizia locale, che collabora con i nazisti, fa una visita alla fattoria dei Bielski. Zus e Asael sono ricercati e la polizia è intenzionata a catturarli. Uno dei poliziotti che venne con i tedeschi sbatte mio padre contro il muro, poi gli spezzò le costole con il calcio del fucile. Mio padre dovette restare a lungo a letto. Non riusciva a camminare per via delle percosse. Per gli ebrei che abitano nelle vicine città di Lida e Novogrudek, la vita sotto l'occupazione nazista è altrettanto difficile. Le nostre vite non avevano valore. Ci trattavano peggio degli animali. Un animale poteva camminare sul marciapiede, un ebreo no. Le cose peggiorarono giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. Ogni giorno qualcuno spariva. Qualcuno veniva ucciso, non tornava a casa dal lavoro. Sapevamo di non avere futuro. Le uccisioni sommarie presto lasciano il posto alle esecuzioni di massa. L'8 dicembre 1941 le truppe tedesche di stanza a Novogrudek rastrellano più di 6.000 ebrei e iniziano uno spietato processo di selezione. Uno a sinistra, uno a destra. Sinistra, destra. A destra si continuava a vivere, a sinistra si moriva. Quelli che sono stati selezionati per morire, in totale più di 5.000 persone, vengono condotti fuori dal paese, dove in precedenza è stata scavata un'enorme fossa. Era una fossa enorme, molto lunga. Ci fecero scendere dentro la gente e iniziarono a sparare. Quelli colpiti dai proiettili furono fortunati. Chi non fu ucciso subito morì soffocato, sepolto vivo. I gentili che vivevano in quella zona videro che la terra continuava a muoversi. Si muoveva continuamente. Ci volle più di una settimana perché morissero tutti. Vengono uccisi anche i genitori dei Bielski. Zeus perde anche sua moglie e la loro figlia neonata. Tuvia Bielski abita a Lida. Ha ottenuto dei documenti falsi e si fa passare come gentile. Ma con il peggiorare della situazione decide di ritornare a Stankevich a cercare i suoi fratelli. Nell'inverno del 1941 Tuvia torna a casa attraversando a piedi la foresta. In poco tempo ritrova i fratelli Zeus e Asael. All'inizio del 1942 i Bielski hanno radunato nella foresta una dozzina di persone, per la maggior parte parenti. Lì iniziano a collaborare con i combattenti della resistenza russa, i partigiani, anch'essi rifugiatisi nei boschi. A marzo i fratelli tendono una serie di rischiose imboscate a convogli di rifornimenti tedeschi e contro i collaborazionisti. Con il successo di ogni operazione cresce il loro arsenale di armi. Nel maggio del 1942 il gruppo Bielski ha superato le 20 unità. Ci rendevamo conto di avere bisogno di organizzazione. Così ci fu un incontro e visto che Tuvia era il più anziano, mio marito propose Tuvia come comandante. Tutti applaudirono e furono d'accordo. Fin dall'inizio Tuvia stabilisce che la priorità del gruppo sia liberare altri ebrei e offrire loro rifugio nella foresta. La notizia giunge nei ghetti di Lida e Novogrudek. Tuvia era un eroe per tutti. Diceva che se avesse avuto un pezzo di pane, lo avrebbe diviso con chiunque fosse venuto e che chiunque fosse venuto avrebbe avuto un posto qui. Comprendeva il valore della vita. Tuvia sapeva che uccidere 10, 20, 30 o anche 100 tedeschi non sarebbe servito a niente. Ma salvare anche un solo ebreo era un affronto ai tedeschi. Aveva più valore, sia che fosse una donna, un vecchio o un bambino. Era più importante salvare una vita che uccidere. Nell'agosto del 1942 i fratelli Bielski fanno arrivare lettere e messaggi nei ghetti di Lida e Novogrudek, invitando gli altri ebrei a raggiungerli nella foresta. Avevamo sentito dire che se si riusciva ad evadere dal ghetto e a scappare verso Lida, c'era una casa isolata dove viveva un uomo di nome Kozlowski. Un contadino, Konstantin Kozlowski, si rivela un prezioso alleato. È un gentile, ma è disposto ad aiutare gli ebrei. Gli ebrei che scappavano si radunavano lì. Era una cosa segreta al 100%. Da lì venivano condotti nella foresta. Giorno dopo giorno continuavano ad arrivare gruppi di persone. In poco tempo diventammo un centinaio. La punizione per aver tentato di fuggire dal ghetto è l'impiccagione. Nonostante ciò, agli inizi della guerra, molti riescono a superare il filo spinato e a fuggire nella foresta. Ma nel maggio del 1943, a Novogrudek, ha luogo un'altra esecuzione di massa. Nel ghetto sopravvivono solo 250 ebrei. Così decidemmo che dovevamo fare qualcosa. Decidemmo che avremmo scavato un tunnel. Dovevamo scappare in qualche modo. Lo scavammo usando i cucchiai, le forchette e le mani. Dopo più di 4 mesi di scavo, il tunnel è pronto. Una notte di settembre, una notte di pioggia, decidemmo di strisciare fuori. Eravamo in fila. Quando fu aperto il passaggio all'estremità del tunnel, sentimmo l'aria fredda sulla faccia. E strisciammo tutti fuori. pugno. Non appena uscimmo dal tunnel, si scatenò l'inferno. I proiettili illuminavano il cielo. Eravamo 250 persone e 70 o 80 furono uccise o catturate. Ma 170 si unirono ai partigiani. Per gli abitanti del ghetto di Lida non c'è più tempo. Il 17 settembre 1943 gli ultimi 2000 ebrei rimasti nel ghetto vengono radunati dai tedeschi e scortati fino alla stazione ferroviaria. Vengono caricati sulle carrozze per il bestiame. La storia e la memoria. Continua il radiodocumentario in collaborazione con History Channel sui fratelli Bielski. Dopo lo scoppio del secondo conflitto mondiale, si rifugiarono nella foresta bielorussa e organizzarono un campo per centinaia di ebrei in fuga dai nazisti. Il gruppo, guidato dai tre fratelli, collaborò assiduamente coi partigiani russi, organizzandosi in una vera e propria brigata, la Brigata Bielski. Alla fine del 1942, la Brigata Bielski deve affrontare un nuovo nemico. Il rigido inverno bielorusso. Indossavo quello che ero riuscita a portare dal ghetto. Avevamo i vestiti strappati, le scarpe bucate, i calcini laceri. Non avevamo molto da metterci. La gente dormiva con i vestiti addosso. Se avevi una pistola, dormivi anche con la pistola. Andavi a lavarti con la pistola. Dove andavamo a lavarci? Fra due alberi. Vivevamo come animali. Nei primi tempi il poco cibo consiste in quello che il gruppo riesce ad elemosinare, prendere in prestito o rubare nei villaggi vicini. Dovevamo sopravvivere. Avevamo una famiglia numerosa da sfamare. Per cercare il cibo non si andava con i soldi a chiedere quanto costa. Ci si andava con le pistole. La sopravvivenza è una motivazione molto, molto forte. Ricordo che una volta sentimo dire che c'era un cavallo morto in un campo. Quando la gente dei villaggi vicini lo seppe, corse a farlo a pezzi. Quando arrivammo noi, erano rimaste solo le interiora. E mia madre ricevette l'incarico di pulire quelle interiora e cucinarle. Ancora ricordo quel sapore. Nessuno riuscirebbe a sopportarlo, ma noi lo mangiammo con gusto, eravamo felici. Ci dispiaceva solo di non essere riusciti a prendere anche un po' di carne. La capacità di ricreare anche solo la parvenza di una vita normale è fondamentale per la sopravvivenza. Bisognava creare le condizioni per sollevare il morale delle persone, perché tutti avevano perso qualcuno. Ci riunivamo e cantavamo canzoni ebraiche davanti al fuoco. I momenti felici nei boschi sono preziosi, ma anche inevitabilmente brevi. È necessario rimanere vigili in ogni momento. C'è sempre il rischio che i tedeschi scoprano il campo nella foresta. Ci spostavamo da un posto all'altro come zingari. Non potevamo restare nello stesso posto. Pensavamo che ci avrebbero scoperto o che qualcuno ci avrebbe tradito. Alcuni abitanti dei villaggi denunciavano i partigiani ai tedeschi. Bisognava occuparsi di loro. Non si poteva lasciar stare. A quei tempi, per un gentile, consegnare un ebreo o uccidere un ebreo era una buona azione. Ricevevano una ricompensa in cambio. Uno di questi gentili è un ex vicino di casa dei Bielski di nome Vatia Kuschel. I miei fratelli inviarono 10 o 15 uomini. Lo trascinarono fuori dal letto e lo portarono nei boschi. Uno dei nostri, di nome Ben Gulkov, lo fece stendere in terra e gli tagliò la testa con un'accetta. Poi bruciarono il corpo e lasciarono accanto un cartello. Questo è Vatia Kuschel. Ucciso e bruciato perché collaborava con i nazisti. Quando è in gioco la sopravvivenza, si smette di essere umani. Incutevano paura nella popolazione. Non c'era una sola persona in tutta la Russia bianca che non conoscesse i Bielski. Eliminavano i collaborazionisti, facevano sul serio, facevano quelle rappresaglie per dimostrare a tutti cosa succedeva a chi faceva del male agli ebrei o li denunciava, per dimostrare che c'era un prezzo da pagare per chi versava il sangue degli ebrei. All'inizio del 1943 i fratelli Bielski hanno radunato sotto la loro protezione più di 300 ebrei. Con la crescita del gruppo, mantenerne segreta la posizione del campo è sempre più difficile. Alla metà di febbraio, il peggior incubo dei Bielski si avvera. Alcuni di noi erano andati nei dintorni a cercare del cibo e avevano deciso di prendere una mucca, di riportare un'intera mucca al campo. Commisero un grave errore, perché mentre trasportavano la mucca non si accorsero che stavano lasciando una scia di sangue. I tedeschi la seguirono e scoprirono la base. Fu un disastro. Ci sparpagliamo per la foresta correndo all'impazzata, scappando in ogni direzione. Quando arrivammo in una radura, fummo investiti dal fuoco delle mitragliatrici. I proiettili ci fischiavano sopra la testa, erano molto vicini. Mi facevano cadere in testa gli aghi dei pini. Scappavamo da una parte all'altra. Quando riuscimmo a ricongiungerci, molti di noi erano stati uccisi. I tedeschi distruggono il campo e si ritirano. I sopravvissuti della brigata Bielski si spostano nella foresta di Butzkevich, 11 km a ovest di Novogrudek. Le perdite subite non minano la determinazione dei fratelli. Combattenti dell'unità Bielski sotto la guida di Zuss collaborano spesso con i partigiani russi e intensificano le operazioni di sabotaggio contro il nemico. Si appostavano nelle zone dove avevano sentito dire che sarebbe passato un treno, portandosi delle granate per farlo saltare in aria. Uccidevano i tedeschi e distruggevano i loro depositi di munizioni. Poi scappavano via. Sol Lapidus è un ebreo che milita in una brigata partigiana russa che agisce nello stesso territorio nella foresta dei Bielski. Per lui il gruppo Bielski è indispensabile. Conoscevano ogni albero. Senza il loro aiuto non potevamo andare da nessuna parte, perché ci saremmo persi. Poco dopo, la brigata Bielski e i loro alleati russi lanciano quella che sarà la loro più grande azione congiunta, un'operazione nota come la guerra alle rotaie. Decine di combattenti dell'unità Bielski smantellano i binari per più di 60 chilometri, interrompendo i rifornimenti tedeschi verso il fronte. La brigata Bielski riuscì a fermare i treni diretti al fronte per 51 ore. In guerra, fermare i rifornimenti al fronte per 51 ore rappresenta un danno enorme. I nazisti offrono una taglia per la cattura di Tuvia Bielski, 100.000 marchi, vivo o morto. Irritati dai successi del movimento di resistenza, nel luglio del 1943 i tedeschi danno il via all'operazione Hermann per liquidare i partigiani una volta per tutte. 52.000 soldati tedeschi vengono inviati nei boschi. I Bielski sono costretti a rifugiarsi nel fitto della foresta, attraversando una pericolosa palude. Immaginateveli di notte, esausti, con l'acqua fino al petto e un bambino sulle spalle. Dovevano legarsi a un albero per riuscire a dormire senza annegare. Nel frattempo, non lontano, c'era una postazione tedesca che non smetteva mai di sparare. Sparavano alla cieca. Miracolosamente, nessuno della brigata Bielski viene ucciso. Quando i nazisti finalmente si ritirano e abbandonano la zona, il gruppo Bielski si sposta 120 km a ovest di Minsk, nella foresta di Naliboki. Lì iniziano la costruzione di una base permanente. Diverrà nota con il nome di Gerusalemme nella foresta. Dopo essere sfuggiti ai nazisti per quasi due anni, nell'autunno del 1943 Tuvia, Zuss e Asael Bielski, insieme ai quasi 800 ebrei ai quali hanno offerto rifugio, iniziano la costruzione di una nuova base. Vivevano nei Zeblanka, nei bunker. Ci si trovavano benissimo. Per abbellirli, li decoravano con delle foglie fresche. Dentro c'era sempre un pentolino sul fuoco. Entravi dentro e c'erano 20 persone da un lato e 20 persone dall'altro. E quando andavamo a dormire, chi si doveva alzare per andare in bagno perdeva il posto. Dopo doveva svegliare tutti per farli spostare. Ancora più impressionanti delle baracche sono i laboratori e le botteghe del campo. Un calzolaio, un sarto, uno che aggiustava i fucili, uno che aggiustava di tutto. La sera mettevano su anche uno spettacolo. La base ha anche un medico e una scuola per i bambini. Per prevenire il rischio di epidemie di tifo, uno dei bunker viene convertito in bagno pubblico, completo di sauna. Per coloro che desiderano osservare le festività ebraiche, viene costruita una sinagoga. Nel febbraio del 1944, i russi richiedono un gruppo di uomini ai Bielski per costruire una pista d'atterraggio per gli aerei che portano i rifornimenti. Quell'operazione fu svolta dai partigiani Bielski. Loro ripulirono il campo, loro prepararono la pista. Atterrare era piuttosto difficile. Di solito lanciavano le provviste col paracadute. Verso la fine eravamo molto bene organizzati. A quel punto potevamo comunicare, avevamo la radio, avevamo tutto. Eravamo diventati un esercito. C'erano più di 35.000 partigiani. E tutti conoscevano Tuvia Bielski. Insieme alle provviste giungono notizie dal mondo esterno. Nel febbraio del 1943 le ultime truppe tedesche rimaste a Stalingrado si arrendono all'armata russa. L'autunno seguente i russi liberano Smolensk e Kiev. Il 9 luglio 1944 un gruppo di nazisti in ritirata si imbatte accidentalmente nella base della Brigata Bielski. Irruppero nella base come animali selvaggi, come fiere. Non si nascondevano neanche. Avanzavano e sparavano. Facevano fuoco come pazzi. Tiravano granate. Colpirono uno dei nostri, che corse fuori con le budella che gli uscivano dalla pancia. Muoiono 9 membri della Brigata Bielski prima che i nazisti vengano sopraffatti e messi in fuga. Ma 4 soldati tedeschi vengono catturati vivi e riportati alla base. Dopo tutto quello che era successo, i nostri uomini erano impazziti, accecati dall'odio. Ci accalcammo intorno a loro e uno ad uno ci avvicinammo per colpirli, insultarli, sputare contro di loro, urlando e piangendo. I tedeschi ci imploravano. Ci supplicavano dicendo: non è colpa nostra, obbedivamo agli ordini dei nostri superiori, non ne sapevamo niente, siamo innocenti. Continuavano a ripetere: siamo innocenti, siamo innocenti. Ci alternavamo a colpirli, ognuno di noi diceva: questo è per mia madre, questo è per mio padre, questo è per mio fratello, questo è per mia zia. Li picchiamo a morte, proprio così. I membri della Brigata Bielski trascorrono quella che sarà la loro ultima notte nella foresta. Vengono svegliati da un evento inatteso. Alla fine fummo liberati dall'esercito russo. Inaspettatamente. All'improvviso vedemmo un convoglio di artiglieria russo. Avanzarono fino ad attraversare il nostro campo. Ci dissero: siete liberi. La guerra è finita. Tornate a casa. Il 10 luglio 1944 i fratelli Bielski guidano una processione di ebrei fuori dalla foresta. Con le loro azioni hanno salvato più di 1200 tra uomini, donne e bambini. Asael Bielski si unisce all'armata russa e cade in battaglia nel 1945. Tuvia e Zus Bielski si trasferiscono prima in Israele e poi a New York, dove moriranno. Vi segnaliamo che questo documentario sarà trasmesso da History Channel giovedì 27 novembre alle 12:25 col titolo Sfida al nazismo, i fratelli Bielski. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Laura Marchesi. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.